sono le possibilità che un ragazzo come te e una ragazza come me si mettano insieme? Beh, Lloyd, è difficile a dirsi. Insomma, noi non... Dimmelo in faccia. Voglio la verità nuda e cruda. Dopo tanta strada fatta solo per vederti, Mary, almeno devi essere franca con me. Quante possibilità ho? Non molte. Vuoi dire non molte, tipo una su 100? Io direi piuttosto una su 1.000.000. Allora mi stai dicendo che una c'è. E vai! Tu fai cantare forte il motore, non ti curi di chi ti viene incontro. Tu fai cantare forte il motore, non ti accorgi dello specchietto che si infrange. Sì, perché la vita è sempre soltanto una sfida a chi ti sta davanti, davanti. Chissà perché. Chissà perché. Io che cercavo solo una storia appena un po' diversa dalle mie altre, io mi ritrovo adesso in questo inferno dantesco e devo dire che mi piace, sì, forse la vita è stata soltanto un siamo fermi e sei a guardi danni, ma siamo innamorati e quindi accetti i baci, specchietti come questo dici, ce n'ho quanti ne voglio, un mese è già passato, ma tu non l'hai trovato, l'impatto, l'impatto, l'impatto, l'impatto era forte. Il danno, il danno, il danno fu niente. L'impatto, l'impatto, l'impatto, l'impatto era forte. Il danno, il danno, il danno, il danno fu niente. Come quando io mi sveglio, esco e poi tu mi dici sei uscito, non me ne ero neanche accorta. Mi spiace veramente tanto, ma non riesco ad unirmi al coro che si crea di volta in volta che Federico Fiumani fa uscire un disco. L'ultimo, quello da cui abbiamo ascoltato un estratto, a nome Diaframma. Mi spiace perché è un artista sicuramente sempre onesto, sempre coerente, ma questi due fattori non sempre poi hanno come risultato un'opera artistica di buon livello. Come anche delle difficoltà le stanno vivendo i Modest Mouse, la band dello stato di Washington, uscita con We Were Dead Before the Ship Even Sank, l'album che dovrebbe contenere quello che è il seguito di Float On, una nuova Float On, il loro grande singolo che con il precedente album li ha fatti conoscere veramente a tutti. Hanno allargato la formazione anche ad un nome storico, ovvero sia l'ex chitarrista degli Smiths Johnny Marr. Ma per ora i primi ascolti di questo album, seppur fatti in settimane fra di loro a distanza, quindi con il tempo di lasciarsi sedimentare il giudizio, non mi hanno soddisfatto del tutto. In ogni caso noi ci ascoltiamo quello che è il primo singolo estratto dal disco, Dashboard. Cold and down, was patiently erasing and recording the wrong episodes after you had proved my point wrong. It wasn't like I'd let it go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I just wanted to catch the last laugh on this show. Nell'ombra della casa, sulle rive soleggiate del fiume presso le barche, nell'ombra del bosco di Sal, all'ombra del fico, crebbe Siddhartha, il bel figlio del Bramino, il giovane falco, insieme all'amico suo, Govinda, anch'egli figlio di Bramino. Sulla riva del fiume, nei bagni, nelle sacre abluzioni, nei sacrifici votivi, il sole bruniva le sue spalle lucenti. Ombre attraversavano i suoi occhi neri nel boschetto di mango, durante i giochi infantili, al canto di sua madre, durante i santi sacrifici, alle lezioni di suo padre, così dotto, durante le conversazioni dei saggi. Già da tempo Siddhartha prendeva parte alle conversazioni dei saggi, si esercitava con Govinda nell'arte oratoria, nonché nell'esercizio delle facoltà di osservazione e nella pratica della concentrazione interiore. Questo era l'incipit di Siddhartha, di Hermann Hesse.